provato a immaginarmi, così come un gioco personale, come l'avrebbe giocata un nostro comune amico, forse addirittura più tuo che mio, e che da tempo non c'è più, cioè Nereo Rocco. Allora, è chiaro che non si può fare un confronto testuale perché Rocco giocava uomo, no? Certo. Quindi pensiamo a un Rocco moderno che arriva adesso e che si adegua al calcio di adesso. Io credo che avrebbe fatto una formazione diversa e ti dico un modulo diverso. Cioè, io penso che l'Inter debba temere non tanto gli attacchi frontali quanto gli sfondamenti sulle fasce, soprattutto in un campo largo come quello di Barcellona, dove si gioca così. E io penso che il vecchio Paron avrebbe rinforzato le fasce, cioè giocando con Maicon esterno ma alto, sì, e Cordoba alle spalle sulla, sì, destra, e Tivu Zanetti in alternativa sulla sinistra. Sulla sinistra. Poi se Schneider sta bene, cambiasse Schneider e davanti Milito chiaramente. Sì, sì, questa è indubbiamente... un 4-4-2, ecco, dove gli esterni alti sarebbero alti, ma in grado anche di fare quelli bassi, sarebbero stati, certo, Maicon e Zanetti. Senti... pensavo a questa formazione, mi sfagiolerebbe anche, mi incuriosirebbe. Fermo restando però che Mourinho, con tutto quello che si può pensare nel bene o nel male di lui, ha trovato la quadratura europea dell'Inter con questa formazione prettamente offensiva, quindi è perfettamente logico che vada dritto. Che vada avanti con quella. Sì.